ti ho regalato tutto il mio amore ed altro ancora ho dovuto tenere per non bruciarmi la pelle di sole, per non smarrire le nuove parole. Ti ho mescolato quel vento, quel cielo, ti ho ricordato e ti ho cancellato. Ti ho costruito un castello sincero come rifugio ad un cuore sperduto. Di tutto questo non so più che fare, coi pugni chiusi dentro le tasche, alzo il colletto per non più pensare ai sogni che restano, stelle nascoste. Di tutto questo puoi anche scherzare, peraltro ancora che avremo sbagliato, hai molto tempo per dimenticare. La vita dissolve il presente in passato.